America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi l'America si reca alle urne per le elezioni di metà mandato e un'America volatile, preoccupata da tassi di disoccupazione ostinati, da disavanzi pubblici mai visti, da una crisi immobiliare che sembra perpetua, da una riforma sanitaria di cui non si conosce ancora l'impatto. L'esito di queste elezioni appare scontato, come ci dice questa canzone. I read Pelosi blues will soon melt away. We're taking the House and Senate in 2010. If we can stop them there, their agenda doesn't have a prayer. It's up to you in 2010. Avete sentito una parodia di New York, New York, non dell'interpretazione di Frank Sinatra, ma di un cantante anonimo. Dice che questo è l'inno ufficioso di queste elezioni, elezioni del 2010, che manderanno a casa i democratici e riporteranno i repubblicani in controllo della Camera. I blues, gli Obama blues, dice questo cantante improvvisato, sono finiti. E dunque in questo voto l'America ansiosa finirà per esprimere un referendum sul presidente Barack Obama, con un esito, come vi dicevo, annunciato da sondaggi che si muovono tutti in una direzione, quella cioè del pollice verso. Il 45% degli elettori ha confermato in un sondaggio di ieri del Wall Street Journal, NBC, di voler esprimere un voto di protesta contro Barack Obama. Ma veniamo ai numeri. I seggi certi per i repubblicani restano fermi a quota 224, quelli democratici sono precipitati a quota 167 con 44 seggi incerti. Al Senato siamo invece a quota 48 democratici contro 45 repubblicani, ci sono 8 seggi incerti. Complessivamente, in un sondaggio molto accurato condotto su base nazionale da Gallup, e questo semplicemente sulle preferenze del voto che è stato rilasciato di nuovo ieri, emerge addirittura un distacco del 55% a favore dei repubblicani, un 40% a favore dei democratici, e dunque un doppio sorpasso, un sorpasso dunque anche al Senato all'alba di questa mattina è ancora possibile. Dunque questa mattina alle urne la situazione per i democratici è peggiorata addirittura secondo i sondaggi. La mobilitazione degli ultimi giorni non ha funzionato. Abbiamo visto il tentativo a Washington, la mobilitazione, la grande manifestazione dei comici. Abbiamo visto dei predicatori battisti che hanno cercato di mobilitare il voto afroamericano. Anche quello non ha funzionato. Abbiamo ai microfoni di America 24 Claudio Gatti, corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 ore, e Christian Rocca, inviato che ha seguito queste elezioni. Cominciamo da Claudio, che è stato a Washington. Perché questa manifestazione, questa almeno è la mia impressione, non ha funzionato o comunque può essere stata controproducente? C'era una grande folla, ma non credo che lascerà il segno. 200.000 persone, secondo alcune stime, moltissimi giovani, ma non si aveva affatto l'impressione che fosse l'embrione di un movimento politico duraturo. Era più che altro un gruppo di persone che voleva manifestare la propria esistenza. Christian, i repubblicani hanno espresso un movimento, il Tea Party, hanno organizzato attorno a questo movimento una grande manifestazione con Glenn Beck, i democratici hanno risposto con dei comici. È stato controproducente per loro? Questa manifestazione dei comici ha, come dire, consolidato l'idea che intorno al Partito Democratico, intorno a Barack Obama, ci sia soltanto un movimento elitario di persone un po', appunto, delle elite, delle grandi università americane, non the real Americans, come dice sempre Sarah Palin. Però io contesterei anche il fatto che tra i repubblicani ci sia davvero un movimento organizzato intorno ai Tea Parties. Il Washington Post qualche giorno fa ha fatto un'ampia inchiesta sui Tea Parties, li ha catalogati tutti, sono circa 1600, ha cominciato a intervistare i leader di questi gruppi e ha scoperto che la gran parte di questi gruppi intanto non esiste, è formata da una o due persone che addirittura non rispondono neanche al telefono, e per il resto sono gruppi piccoli. In realtà questo movimento dei Tea Party non ha fatto altro che catturare il mood dell'America, di questa America della crisi, del post 2008 e così via, e i repubblicani stanno sfruttando questo sentimento. Torno a dire, però io non sono d'accordo con te su questo punto, sono convinto che i repubblicani, lo hai detto in qualche modo, ma lo stanno sfruttando questo movimento dei Tea Parties, che è frammentato, giustamente 1300, 30 per stato, 50 stati, almeno 1500 di questi movimenti, ma non diverso, quantomeno da un punto di vista pratico operativo, da quello che fu il movimento dei cristiani evangelisti. E pensiamo all'influenza che c'è stata con i cristiani evangelisti, erano 1000 chiese diverse sparse nella grande America, qui c'è il patriottismo, lì c'erano dei valori religiosi, quindi sono riusciti in qualche modo a sfruttare in salsa diversa così una grande emotività. Ma questo perché i democratici non riescono a farlo? Guardate che se alla fine, stasera sapremo i risultati, al Senato ci saranno due, forse al massimo tre candidati senatori dei Tea Parties, quindi alla fine, e ci saranno invece un gruppo molto consistente di repubblicani, di conservatori moderati, seri e credibili. Claudio, su questo come la vedi? Perché i democratici non riescono a organizzarsi o a mobilitare con la continuità con cui hanno dimostrato i repubblicani un movimento grassroots, che poi è un movimento di attivisti che va a battere, a bussare alle porte e mobilita il voto? Ma i movimenti che lasciano il segno sono i movimenti di protesta, lo è stato quello contro la guerra in Vietnam e lo è questo dei Tea Party. La realtà è che i democratici hanno il controllo del Congresso da 4 anni e la Casa Bianca da 2, quindi negli ultimi anni hanno avuto il monopolio assoluto della politica. La politica non ha portato i risultati che il paese chiedeva e che la maggior parte delle persone si aspettavano, e quindi è difficile per chi sta dalla parte di chi è stato al potere organizzare un movimento di protesta. Questa sera, come diceva Christian, avremo i risultati, e aggiungo, sono d'accordo, non solo sono pochi i senatori, ma l'importante è la mobilitazione del voto, cosa che loro sono abilissimi nel fare, questi dei Tea Parties, ma anche i senatori che verranno fuori dal movimento Tea Party, mi riferisco a Marco Rubio, che poi uno di quelli che ho conosciuto, secondo me, come già capitò con Scott Brown del Massachusetts, finiranno per portarsi verso il centro. Ma capiamo come funziona questo voto. Claudio, tu fra noi tre sei l'unico che questa mattina è andato a votare. Ecco, come si vota? È stato molto semplice, perché a mezzo isolato da casa mia c'è una chiesa in cui il quartiere, la nostra zona, si va a votare, e si è stato introdotto il nuovo sistema di voto, quindi per la prima volta non si sono usate più le macchine meccaniche che c'era una volta con la leva da girare, bensì sono state date delle schede su cui bisognava fare un segno con la matita e dopo che inserirle in una sorta di fax che avrebbe poi letto i risultati. È stata una cosa che si è svolta in modo molto semplice e chiaro. Christian, un commento finale in chiusura di trasmissione. No, volevo dire questo, che la cosa più interessante di quelle che ha detto tutte interessanti Claudio è quella che ha detto, che ha votato in una chiesa. Ora immaginiamoci cosa succederebbe in Italia se si potesse votare nelle chiese. Ci sarebbe la rivoluzione, come l'ingerenza, la non ingerenza. In un paese come questo, che ha tra i suoi principi costituzionali al primo emendamento la separazione di fatto tra Stato e Chiesa, queste cose sono possibili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Halloween appena passato, con grandi feste, parate, mascherate in tutta America. Ted Leo, cantautore dell'Indiana, ha festeggiato in modo molto particolare. Si è infatti travestito da cantante dello storico gruppo Misfit e ha tenuto un finto concerto. E dunque a Ted Leo dedichiamo la canzone del giorno, The High Pop. I'm looking at another day to find that I've my love in stores. If there's a war, another shitty war to fight for Babylon, it's the perfect storm. York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.